nostro eterno Padre, l'Onnipotente Dio, dal nulla il Creatore. Per il suo Santo Spirito nacque Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Io credo in Dio Padre e in Cristo il Figlio suo, insieme allo Spirito, Dio è uno in tre. Credo la resurrezione, con Lui risorgerò, perché io credo nel nome di Gesù. Giudice difensore, trafitto e crocifisso, in Lui è il perdono. Disceso nell'inferno, risorto nella gloria, nei cieli per sempre. Io credo credo nella vita eterna, nato da una vergine. Credo nella Santa Chiesa e nei santi in comunione. Credo la resurrezione, che Lui ritornerà. Per questo credo nel nome.